Leonardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sono contento che Dunque, qualcuno io ti parlo abbia subito abboccato al mio amo. Eccomi qua. Dunque, ricordo triste che ho io di un'infanzia che altrimenti è stata favolosa come tutte le infanzie, è quello della colonia Marina in cui andai a 6 anni, a Riccione mi sembra. Erano dunque organizzate, credo, da opere pontificie, Sì, erano qualcosa sempre preti e monache. Sì. prete Oggi, monache, esatto. se dico a mio figlio che ha 15 anni, la colonia pensa che sia il profumo o pensa che sia una città, non sa cosa fosse, ma la colonia era la minaccia. Se sei cattivo l'estate ti mando in colonia. No, ma per noi deve essere un divertimento, cioè tanti amici del paese mio, insomma, ci tettano anche bene. Io invece mi trovo malissimo perché, non lo so, insomma, c'erano spiagge coperte quasi sempre di residui di pesci, un puzzo Sì, insopportabile. erano i posti più schifosi dove non c'era I posti turismo, è più chiaro. schifosi. Poi, durante questa vacanza un ragazzo fu investito da un'auto e anche quello continuò a morire, non morì, comunque rimase ferito. Poi, Come si mangiava la colonia? Che ma io mi ricordo le gallette c'erano per merenda. sono quelle Erano che davano nella terribili. razione ai militari, evidentemente per una Per sorta di perverso giro, qualche maresciallo poi le passava ai preti che le davano ai bambini. Ho capito. E mi ricordo soprattutto che andavamo a fare la pipì intorno a un vascone, Sì. con il rischio anche di caderci dentro. Bisognava fare intorno a questo vascone, maleodorante, si doveva fare la pipì, Ah, insomma. quello cioè era un obbligo della colonia, quello era diciamo la latrina pubblica. La latrina pubblica.